Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Sì, non so, te capi? Scemo, ma col cuore te lo dico. Detto attribuito a Maometto, in cui lui dice che Allah infonderà il piombo fuso nelle orecchie di chi avrà ascoltato la musica. Com'è concepibile che uno educato in Inghilterra, eccetera, eccetera, diventi un kamikaze? Un kamikaze? Com'è concepibile? Questo vuol dire il fallimento di politiche di integrazione, il fallimento di politiche formative. Noi siamo più forti, ma alla fine le buschiamo lo stesso. C'è qualcuno che ha il coraggio di negare che dopo a 16 anni dal 2001 alla fine noi siamo ancora impotenti e sconfitti di fronte a questi terroristi, o chiamateli come volete? E poi devo dire la verità, siccome lui ha una fidanzatina che è di origine anche marocchina, no? E che quindi che in questi giorni è ospite a casa nostra, lei diceva: sì, però la verità è che tutti i terroristi sono islamici. Chi si fa esplodere ammazzando dei bambini è un figlio di un cane, non è un essere umano, anzi i cani sono migliori di questa gentaglia qua. Vabbè, è partito il solito dibattitone da TV sul terrorismo. Il dibattitone, e guardate che le posizioni sono tutte ben delineate, sono quelle solite, chiare. La Santanchè che ripete come un mantra questa: non tutti i terroristi sono islamici, no, non tutti gli islamici sono terroristi, ma tutti i terroristi sono islamici o musulmani, vedete come Salvini... Cani, Cacciari che parla di integrazione, e vabbè, tutto così. Le solite analisi che la prossima volta, perché purtroppo ci sarà un prossimo attentato, perché prima o poi ci sarà, purtroppo, speriamo molto in là e speriamo che vengano fermati prima questi disgraziati che compiono queste cose, ma prima o poi noi siamo abituati. Chiamate me, no, non per andare in TV, no, ci siamo capiti male. Chiamate me, cari ascoltatori, vi do il copione degli interventi in TV, ve lo do prima, così insomma magari risparmiate tempo, guardate qualcos'altro, oppure se volete guardarli, guardateli, per carità, non voglio privarvi di questa gioia. Sai tutto tu, mi scrive un ascoltatore. No, ecco, la verità è questa. Bravo ascoltatore che mi scrive "sai tutto tu". La verità è questa: che io proprio non so niente. Mi vanto di non sapere niente, ma la verità è che io non so niente, come quelli che parlano spesso non sanno niente. Quando parli sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu, e poi con quella voce martellante che ti prende dal cervello, ma come si fa ascoltare una persona così di prima mattina? Per l'appunto, invece è il contrario, mi vanto di non sapere, perché nessuno sa, nessuno ha la scienza infusa, sono tutte idee, analisi. Adesso anche Magdi Allam che dice che c'è nel Corano questo versetto del piombo fuso nelle orecchie di chi ascolta musica. Ma cosa ne sappiamo noi se quel radicalizzato, disgraziato terrorista, nato e cresciuto a Manchester, ha mai letto una sciura del Corano? Lo sappiamo noi? No, non lo so. Quindi il dato di fatto certo è che c'è questa, ci sarà. Magdi Allam il Corano lo conosce a menadito, certamente. Ma non si può neanche parlare. No, no, ma parlate, parlate pure. Tutti zitti. No, adesso ho detto parlate pure, presidente. Qua stiamo mettendo a punto la conduzione 4.0 con Vincenzo De Luca a 24 mattino. Allora, tutto oscurato. Ho detto che si può parlare, tutti zitti, tutto oscurato. Oh, ma la sapete che siamo anche in diretta video sulla nostra pagina Facebook di Radio 24 e anche sul sito radio24.it? Peccato che non si vedano gli ospiti, ecco, si vede solo il conduttore, devo dire questa cosa. Peccato che non si vedano gli ospiti, si vede solo il conduttore. Vabbè, tra poco capirete perché. Intanto ci sono a Sovere, provincia di Bergamo, 19 gradi in aumento e cielo sereno, grazie a Diego. All'Ariano 18 gradi. A Perth, eccola qua che arriva Chiara, sole 21 gradi, grande Perth. Oggi c'è, anche oggi c'è. A Paratico 17 gradi, 68% di umidità, assenza di vento, grazie a Roberto. A Cernusco sul Naviglio 20 gradi, un abbraccio da Salvatore. Ragazzi, sta a fa un caldo. 16 gradi, sole e aerosol alla Spezia, Paolo, vabbè. 18 gradi, cielo azzurrissimo e mare uguale qui. Ho capito, ascoltatore, qui. Qui, fammi capire. Qui dove? Marco, Bologna, 15 gradi, nuvolo. A Borgo Virgilio, 19 gradi e mezzo. Carlo. La Veronia è giornalista, lei, la Juventus dei giornalisti. No, no, Veronica. No, no, la Juventus dei giornalisti, no. Cosa vuol dire? Per me non è una bella cosa. Ah, ok, per me sì, però mi sa, no? Perché vinci tutto. Credo, almeno questo mi sembra di aver capito, poi forse no. Chi ha vinto lo scudetto? Non ho capito, chi ha vinto? Non si dice quella parola? No, no, no, no, no, perché devi capire, mi hanno parlato nell'orecchio dalla regia mentre tu parlavi e quindi... Che cosa, dici però cosa ti hanno detto, per no, favore. Niente, no, no, non ho capito, né te né loro, è un momento di scarsa radiofonia, forza, ridicolo. Se volete posso stare zitta, così ridicolo loro. Che hai detto, non l'ho sentito. Ho detto, ha vinto lo scudetto o no? Ah, sì, sì, sì, sì, sì. No, io non lo so, vado così per intuizione. Ah, però sì, sì, di... sì, sì, sì, ha vinto lo scudetto quest'anno, ha vinto la Coppa Italia, ha vinto la Champions League, ha fatto il triplete. Sai cosa? Quindi questo vuol dire che Anacleto si è convertito. Ma non, sai che non lo so se era un grande complimento. Adesso tu insisti su questa via, ma non credo che fosse un grande complimento da parte di Anacleto. Però allora la cattiveria ce la deve spiegare meglio, questo è un appello. Guarda, io ho un sospetto sulla Juventus del calcio, cioè la Juventus del giornalismo, ma non lo dico perché mi crocifiggono, non è che... Poi te lo scrivo in privato. Va bene, me lo scrivi in privato perché già ho capito che stamattina se no comincia, lo sai tutto tu, pure la Juventus, no. Perdere. Esatto, di calcio Veronica Gentili per esempio non sa nulla, nulla proprio lo dice. Vedi, e attraverso questa licenza posso sapere tutto di tutto il resto, quindi chiedete a me. Esatto, come stai Veronica, tutto bene? Bene. Oggi bene, siamo soli, io e te. Davvero? Se me lo dicevi mi vestivo meglio. No, ho capito. Oh, sì. Vuoi ballare, sciocchina? No, peccato purtroppo che non si veda, appunto, diciamo, si vede in video i conduttori. Però adesso stiamo facendo una cosa, cari ascoltatori. Stiamo per approntare un collegamento speciale, non da quest'oggi, ma dalla prossima puntata in cui c'è Veronica Gentili, qui metteremo delle telecamere anche a casa, i nostri. Voi siete completamente pazzi, non solo a quest'ora, pure le telecamere. Alle 6:38. Vabbè. Che momento, sciocchina. Che momento, se mai ci ha dato la sciocchina tre volte. Pensa, siamo soli e arriveremo a 30. Vabbè. Ok, abbiamo aperto il Parlamento che già vi sta aumentando la temperatura corporea. No, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Oh, è arrivato un bel Renzone a buttarmi del ghiaccio nella schiena. Allora. Sì. Allora, cara Veronica, vuoi dire anche tu la tua? No, dobbiamo dire due cose su ancora il terrorismo. Li hanno beccati in Libia, padre, figli di questo qui radicalizzato, eccetera. Ragazzi, questa non è, cioè non è, qui non è il lupo solitario che si è. Io la prossima volta che sento la mancanza di integrazione, le cose, basta, anche un reietto della società, un clochard non è incluso nella società odierna, è considerato un reietto, abbandonato, la gente lo schifa. Non per questo il clochard si fa saltare in un concerto uccidendo adolescenti, uccidendo persone a caso, va bene? Quante persone si sentono escluse dalla società ma non fanno questo? No, partiamo da questo punto. Io non però vorrei farti arrabbiare ulteriormente, sì, però ma no, però secondo me io sono d'accordo con te, non c'è molto da dire perché ormai abbiamo detto tante cose e mi sembra che le cose che diciamo sono sempre le stesse. Avete fatto una splendida sintesi di quelli che sono i cliché delle cose che si dicono da un lato e dall'altro, quindi non mi sembra che ci sia stato un crescendo di consapevolezza sulle ragioni profonde e quello che succede. Alcune cose sono reali, ma sono semplicemente degli elementi in più che uno può andare a guardare, tipo il discorso dell'integrazione vale quando ci sono dei casi isolati, come appunto il lupo solitario, quando si riflette su persone che sono magari di seconda generazione, sono cresciute, adesso penso alla Francia, e quindi qual è stato il problema rispetto ad una cultura che si sviluppa in maniera multiculturale, appunto. Dopodiché in questo caso è evidente che non si parla del lupo solitario, si parla di una struttura articolata, di una famiglia che è cresciuta con questi presupposti e con questa cultura, cioè perché c'è il padre che ha passato tutto questo ai figli a maggior ragione. In questo caso è inutile fare anche discorsi relativamente all'integrazione, cioè l'integrazione, ma questa è una famiglia di libici radicalizzati che pensano che gli infedeli vadano uccisi, dai, cioè, ma ci sono purtroppo queste persone, cioè vogliamo chiudere gli occhi. Appunto, altresì non possiamo nemmeno davanti a questo ripeterci che Maometto è, che Allah è un dio cattivo e bisogna piombarsi le orecchie, perché altrimenti lì si alimentano, no? Tutti i discorsi invece qualunquisti dall'altro lato, perché altrimenti per lo stesso criterio avremmo un Islam composto da milioni di persone che dovrebbe essere tutto bellicoso e sanguinario, non è così? Quindi infatti, cioè non è che ci sono un miliardo di musulmani cattivi, anzi, 99,9% sono persone. L'unica normali, cosa che posso dire, che credo di pensare, è che non è un indizio della loro, della salute di quello che chiamiamo appunto jihadismo dell'ISIS, perché credo che colpire i bambini è veramente l'ultima tappa dell'aver perso ogni tipo di lucidità e di senso. Quindi la sensazione è un po' che in questo momento, proprio perché sono stati indeboliti localmente nella zona della strategica per loro, in quello che loro ritengono essere il loro stato, e proprio perché si sentono meno forti, stanno iniziando a compiere anche degli attacchi in cui secondo me hanno completamente perso ogni tipo di criterio. Sì. Hai capito che voglio dire? Ma no, è chiaro, cioè questo è un punto, come dire, dopo di questo cosa c'è? No, purtroppo in realtà è una capacità che stanno dimostrando di capire dove si può colpire e per fare anche più male, non solo dal punto di vista dei morti, ma anche dal punto di vista di colpire proprio nel ventre della nostra società. Sì, ma perdendo anche ogni tipo di valore, questo è il discorso dal loro punto di vista. Ma che valore può avere? Ma tanto che valore può avere uno che si fa saltare in un concerto? Però secondo me questo è un indizio di... Io credo che davvero sia un indizio del loro non essere, non sentirsi forti, progressivamente sentirsi sempre più esposti. Che secondo me... come dire, no, la famosa frase di Woody Allen, Dio è morto, Marx è morto, anch'io non mi sento tanto bene. Allora uno la applicherebbe anche a là in questo momento. Io la sensazione che ho è che non sia più abbastanza forte anche questo dogma ossessivo religioso per tenere le persone bloccate in quello che dovrebbe essere lo stato dell'ISIS, quindi dover fare sempre di più un'azione ipertrofica per cercare di tenere un controllo. Io ho un po' questa sensazione qui. Allora non iniziare ipertrofica, non iniziare a parlare come Fusaro, non iniziare a parlare come Carlo Fusaro, perché ti mettono le perle di Fusaro, allora, Diego Fusaro, come si chiama? Ho detto Carlo Fusaro, chi sarà un amico suo, infatti gli ho detto fammi stare zitta che non si sa mai, magari il filosofo, il professor Fusaro. Sì, ho capito, volevo sentire una perla di Fusaro, ce l'abbiamo? Eccola qua. Vuoi la perla di Fusaro? Eccola qua, questa è la perla di Fusaro, vorrei che tu l'ascoltassi con grande attenzione e ci dessi un'interpretazione. Ecco allora che stanno provvedendo i signori del mondialismo a creare il nuovo profilo dell'individuo privo di oikos, privo della stabilità familiare e della casa, che si può muovere illimitatamente nel piano liscio, con una creazione connessa di una plebe moltitudinaria, senza casa, migrante, senza identità, che si muove nel piano liscio browniano della globalizzazione. Io mi sto muovendo nel piano liscio, sto patinando nell'oikos. Questo non è male, non è male. A un certo punto il piano liscio browniano dell'oikos, ma dai ragazzi, che professor meraviglia. Fusaro, professor che... Fusaro, ti sei appena lamentato di Cacciari, stava dicendo che ci sono dei migranti che prendono il barcone. Questo è la traduzione. Ci sono dei migranti che stanno maluccio in Africa e prendono il barcone per andare in Europa, talvolta morendo. Questo ha detto il professor Fusaro, l'oikos, il piano liscio browniano. Grazie, ti ringrazio per la traduzione. Vabbè. Ma tu di solito vai in giro con Fusaro, cioè lui fa le cose e poi tu traduci? No. Questo no. Guarda che mi hanno già scritto delle mail terribili per avere toccato il professor Diego Fusaro, per persone che mi dicono che non mi devo permettere io con la mia ignoranza di mettere in con la mia discussione quello che dice il professor Fusaro. No, ma sì, ma anche così ridicolizzarlo, ma non lo ridicolizzo, cioè è che insomma è bello, anzi facciamo un servizio traducendo. Ma la sciocchina traducendo fa un po' di ironia su tutti, traducendo no? Per tutti, traducendo anche per Anacleto quello che ha detto il professor Fusaro, insomma. Ecco, lì ci penso io. Ci pensi tu ad Anacleto? Spiego io ad Anacleto nel dettaglio. Andiamo un attimo al traffico, poi voglio farti parlare dei due casi Rai, il caso Vespa e il caso Insinna. Li conosci il caso Vespa e il caso Insinna? Il caso Vespa e il caso Insinna. Va bene, tra poco. Brum brum brum, c'è il traffico Milan. È meglio dare le crocchette a certi animali domestici per persone sole o indigenti che nutrire maiali umani. Ciao Alino, ma a riguardo di quella notizia che hai letto del robot dell'amore, ma questo qui gode dello sgravio fiscale? Alino Milan, c'è poco da ridere sui discorsi di Fusaro. Almeno ti apre la mente, ti fa andare a vedere sul vocabolario cosa vogliono dire le parole che dice. Ma non c'è proprio niente da ridere, siete abituati a sentire le cazzate, le stronzate. Ma va. Possiamo mettere sulla borsa 5 simpatici, abbiamo preso 5 simpatici gli alati. Una nana che parla con le mani davanti alla bocca, se no sta buona. Insinna, Cioè questa roba perché la fate tra di voi? Ma perché piace? avete tra di voi? Che cosa ci avete nel cui più di me? Ma perché? Per tuo corrente, no, non te li farò vedere, scegliamo noi, ma che cazzo scegliete? Ma ce devo giocare io, la merce la vado io. Vabbè, il sindaco in questo sfogo mandato in onda da Striscia Notizia si sfoga nei confronti degli autori, insomma, perché la famosa c'è la concorrente, la nana di M, è già diventata così, cara Veronica. Ma d'altronde, vabbè, a parte che ringrazio l'ascoltatrice, effettivamente vedi che Fusaro ha un ruolo sociale, cioè di far aprire il vocabolario agli ascoltatori. È importante, lavora per la Crusca. Lavora per la Crusca, infatti. Sì. Senti un po', ma... No, sì, non sono per niente d'accordo io su questa storia di Insinna. Cioè? Trovo che sia molto brutto quello che gli hanno fatto e che non si fa così. Perché? Appunto, io dico, andassimo a sentire tutto quello che Veronica fa una volta che mette giù in linea con noi, no? Adesso... Ma io l'ergastolo, ma ne avevo presi 6, ma Rina era nulla in confronto ma a me. Come? Ma perché? Cioè, ma no, non puoi sapere quello che dico di te appena stacco, appunto... quella sciocchina e poi epiteti, cioè, di ogni genere. Esatto. Puoi immaginare. Sciocchina poi dice... in onda, ma voi dovete sapere poi cosa dice di me. Figurati, sciocchina è stato per cercare di tenere un contegno, l'orario, ma tu non sai quello che dico quando non ci sei, di te, di tutti quelli in regia, questi che chiamano da Radio 24, questi, poi parte. Sì, in realtà me lo dicono poi, quindi so tutto. Ah, vedi, sei così tranquillo, cioè, che vuoi che comincio in diretta? Nonostante, no? Nonostante ciò, vedi, ti chiamo lo stesso e va bene. Ma perché tu sei un cuore buono. Vabbè, ma perché, cioè, però Insinna, sai cos'è il problema di Insinna? Che ha fatto un'intervista una settimana fa, ha detto che lui ama la gentilezza, ama i deboli, però scusatemi, io non credo che le cose vadano in contraddizione. Cioè, io credo che si possa essere... la nana di merda, dai. Cioè, si fa così, ha detto a un autore, si fa così, la si prende, la si porta di là, un colpo al basso ventre e la si rimette in studio dicendo gioca adesso. Cioè, capisci? Allora, io però credo che tutte le persone, ogni persona onesta e sincera sa nella vita, senza necessariamente volerlo fare o mancare di rispetto alle persone di cui parla, di aver detto in un momento di sfogo, di rabbia, cose del genere. Ora che poi questo venga strumentalizzato perché lui è il conduttore nazional popolare che comunque ha questo piglio, anche la parola buono, buonista, non so come vogliamo dire, e quindi nel momento in cui dice delle cose di questo genere diventa particolarmente stridente e fastidioso, posso capirlo. Ma sappiamo che è soltanto un discorso d'immagine. Sì, ma lo sai che rischia il posto? Secondo alcuni rischia il posto. No, io non lo credo. Vedevo ieri il tweet del direttore di Rai 1, che invece erano tutti di sostegno. Uno sfogo. Invece l'altro caso è quello di Vespa. Vespa ha scritto ai vertici della Rai una lettera dicendo: non devo rientrare nel tetto da 240.000 euro perché il mio è un contratto anche artistico, non giornalistico. Lì io l'apologia non la riesco a fare, mi impegno. Non saprei proprio da dove cominciare. Vespa bocciato. Ma no, ma anche perché lo sapevamo, in realtà lui rischia di essere uno dei pochi che prende la fregatura e non gli va giù, perché il lavoro giornalistico di solito nel servizio pubblico non è certo retribuito in quel modo. Lui è una di quelle figure jolly, che in realtà è un giornalista, si è sempre fregiato dell'essere un giornalista. Sì, sì. In questo caso, ieri nella lettera che ha mandato alla RAI scriveva: ma se Fazio fa appunto delle cose su Falcone, io faccio dei pezzi di intrattenimento, chi è il conduttore e chi è l'artista? Proprio la arrampicata sugli specchi, olè. Sì, sì, ma infatti, quindi non bocciato, si può bocciato. Promosso Insinna, bocciato Bruno Vespa, signori. Questi sono i giudizi di Veronica Gentili, la Juventus del giornalismo. Che non sappiamo ancora che vuol dire, però noi continuiamo a ripetercelo. Può voler dire quello che vuoi, certo, può voler dire quella che vince tutto e quindi è la migliore di tutti. E per me, insomma, dare della Juventus non è il massimo del complimento. Tu stai dicendo, da milanista mi vuoi dire, guarda come adesso ti faccio venire il mondo contro, che la Juventus è comprata il campionato. Io non ho detto nulla. L'ho detto, io non so nemmeno di che argomento ci stia parlando. Sono proprio accuse insostenibili queste, Veronica. Non si può seguire su questo fronte. Cioè, dire che la Juve ruba è veramente vergognoso da parte tua. Veronica Gentili, mi raccomando, dai subito il tuo account Twitter. Perfetto. Ti facciamo passare una bella giornata. Com'è Gentili vero? Com'è? Gentili, non lo so più manco io. Gentili vero. Gentili vero. Ecco, questo è l'account Twitter. Non si può dire che la Juve ruba. Sono veramente frasi fuori di senno. No, sciocchina, perché io ho studiato a lungo il campionato e ho capito, sono entrata nelle dinamiche, ho capito che le cose non sono limpide. Questo campionato non è andato liscio. Sei pronta per il processo del lunedì? Sei pronta? La prima cattiveria che mi scrivono tecnica, che cosa dico io? No, ma io volevo dire, capito? Ma io volevo dire, ma il calcio si gioca in 11, come sono in mutande. Ma aspetta, ma la Juventus quali erano? Quelli con la maglia? Bianconera. Comunque, io nel ringraziarti, a proposito di calcio, vince Ivanka Trump, che ha visto una foto di Giorgione Chinaglia in un ristorante e ha chiesto: ma che santo è quello lì? È Giorgione Chinaglia, non ti chiedo chi è, Veronica, vabbè, dai. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milan, anche quelli di Roma, di Napoli. E me ci mettiamo pure quella della Sicilia, perché queste cose fanno schifo, quella della Sicilia. 24 mattino. Sono quasi le 7:20, cari ascoltatori, siamo qui nello spazio dedicato alla rassegna stampa di 24 mattino. Siamo a leggere dunque i giornali con voi, per voi, insieme a voi. Andiamo, Peter. Siamo a giovedì 25 maggio, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore dedicata all'assemblea annuale di Confindustria, imprese forti fanno un paese forte, è il titolo con le parole della relazione del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Patto di scopo per la crescita, dice, azzerare il cuneo fiscale per l'assunzione dei giovani. Invece gli altri quotidiani aprono su o Trump in Italia, o la battaglia all'ISIS, oppure, come il Corriere della Sera, si mettono insieme le cose. ISIS, Trump chiama la NATO, questo è il titolo di prima pagina. Repubblica invece, la rete libica dei terroristi, arresti tra Manchester e Tripoli, in carcere padre e fratelli del kamikaze. Infatti per il giornale il titolo è questo, altro che lupo solitario, il titolo principale, l'ISIS tiene famiglia. Per la stampa, Manchester, la strage ideata in Libia. Il Messaggero, le svolte di Trump a Roma. Il presidente americano vede Bergoglio e parla di pace. Non dimenticherò mai le parole del Papa. Avvenire, nel segno della pace, Trump in Vaticano, Francesco gli porge l'ulivo. È un onore, non dimenticherò le sue parole. La Verità invece, quanti favori ai terroristi islamici, ogni volta la stessa storia, i servizi sapevano della radicalizzazione del killer ma non l'hanno fermato per eccesso di garantismo. Invece il Fatto Quotidiano ci fa ripiombare nella questione italiana, il possibile Nazareno bis. Il giornale di Marco Travaglio si concentra su Berlusconi. Vi ricordate chi è? Delinquente naturale e finanziava la mafia, due virgolettati, il nuovo alleato di Renzi, questo Berlusconi per il Fatto Quotidiano. Allora, la questione dell'attentato a Manchester. Leggo da Lorenzo Cremonesi, pagina 8 del Corriere della Sera, inviato a Londra e Manchester soprattutto. La fitta rete anglo-libica di Salman. Preso il fratello, inneggiava all'ISIS. E tra l'altro ci sono stati 7 arresti in Gran Bretagna. Una famiglia radicalizzata, da sempre fedele all'interpretazione più estremista dell'Islam e probabilmente non troppo lontana dai propositi stragisti del secondo genito, il 22enne Salman Abedi, kamikaze, jihadista di Manchester. È un quadro sempre più fosco e inquietante quello che emerge dall'inchiesta della polizia britannica. Si parla ormai chiaramente di una rete terroristica ampia e articolata. Lorenzo Cremonesi racconta di essere stato avvicinato da un vicino di casa che gli ha detto questo: conosco il terrorista Salman Abedi e la sua famiglia, sono molto religiosi, la loro tribù è parte degli Al-Abedi, originari di Derna, una delle zone più conservatrici delle montagne verdi in Cirenaica. Noi invece siamo di Zintan, molto più laici. Lui ha 4 anni meno di me, da quasi 5 siamo vicini di casa. Tra libici nel quartiere ci si conosce tutti, però loro evito di frequentarli. Salmano oltretutto aveva un carattere difficile, scontroso, antisociale, sempre sul punto di sbottare in un eccesso di rabbia. Questo giovane uomo che ci parla per una mezz'oretta nel quartiere di villette in mattoni rossi di Fallowfield, che vuole essere citato solo col soprannome Storm per non avere guai col resto della comunità, racconta praticamente di una guerra civile libica, comprese l'infiltrazione dell'ISIS e il terrorismo, che si è trasferita in questo pezzo di Europa assieme alle lotte interne giunte negli anni attraverso i migranti. E allora si racconta di questa famiglia radicalizzata. Certo, gli arresti ci sono stati, racconta Lorenzo Vidino, esperto di antiterrorismo, in prima pagina della Stampa. Cosa sappiamo di questo attentato? I primi dettagli su Salman Abedie. Tre dinamiche meritano attenzione. La prima, i contatti operativi dell'attentatore a Manchester. Desta preoccupazione il fatto che le autorità ritengano sia pressoché impossibile che abbia confezionato un ordigno così sofisticato da solo. E dunque è stato aiutato in Libia? Oppure esiste un esperto artificiere jihadista che opera in Inghilterra? Quello che invece è sempre più chiaro è che Abedie era tutto tranne un lupo solitario. I viaggi in Libia, in Siria, le frequentazioni in Inghilterra, i contatti online con famosi reclutatori virtuali del califfato quale Rafael Hosti. Via tastiera, Hosti ne ha mobilitati a centinaia, prima fornendo loro i contatti giusti per arrivare in Siria, oggi spingendoli a compiere attentati nei paesi d'origine. Infine, balza all'occhio una caratteristica del profilo di Abedie, la devozione sua e della sua famiglia. Viene spesso detto che i jihadisti europei sono degli sbandati che non sanno nulla di Islam. Indubbiamente alcuni sono novizi dell'Islam, ma altri jihadisti l'Islam lo hanno studiato e come. L'intera famiglia di Abedie era molto attiva nella moschea di Didsbury, sobborgo di Manchester, e Salman era un hafiz, uno che ha memorizzato il Corano. Quindi lui lo conosceva. Questo è il profilo che emerge. Certo, per l'ennesima volta si legge: l'intelligence lo teneva sotto controllo, evidentemente non molto, ma d'altronde le nostre leggi, le leggi per cui ci siamo battuti, le leggi appunto garantiste, le leggi che ci permettono di avere le libertà, di non avere città blindate, società blindate, sono quelle leggi sfruttate da costoro per colpirci. Infatti La Verità intervista Franco Roberti, procuratore nazionale antiterrorismo, intervistato da Carlo Tarallo a pagina 3 della Verità. L'unico modo è trattarli come i mafiosi. Si può procedere innanzitutto a un'espulsione, spiega Roberti, strumento amministrativo che è di competenza del Ministero dell'Interno. Per quanto riguarda l'autorità giudiziaria, noi proviamo a proporre per questi soggetti una misura di prevenzione personale, cioè l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, in modo da poterli tenere sotto controllo. Parliamo di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, divieti di frequentazione, tutto ciò che ci consente di controllare meglio i soggetti. Il problema dell'espulsione è che occorre individuare lo Stato che riconosce il soggetto come proprio cittadino e lo riceve come tale. Puoi anche accompagnarlo, ma devi sapere dove accompagnarlo. Insomma, Franco Roberti ci spiega sulla Verità che sì, l'espulsione, i divieti di frequentazione, ma poi non è assolutamente facile che tutto questo si concretizzi in un qualcosa di pratico, se davvero poi le leggi, per esempio, sull'espulsione prevedono che uno Stato lo espella e un altro accolga. In tutto, Fausto Biloslavo, a pagina 2 del Giornale, racconta da fonti di intelligence: ecco chi sono i 100 jihadisti pronti a colpire anche l'Italia. Sono giovani, non integrati, in generale la provenienza è da Tunisia e Marocco. Anche qui, scrive Biloslavo, i nostri 007 li conoscono, ma il nostro paese è a rischio. Dietro le sbarre, scrive Biloslavo, risultano, quindi in carcere, 375 radicalizzati o sospetti tali sotto osservazione. Il problema però è costituito dai 400-500 che sono stati scarcerati. è impossibile sorvegliarli tutti perché ci vogliono almeno 4 uomini al giorno ciascuno. Questo spiega Marco Lombardo, esperto di terrorismo jihadista dell'Università Cattolica. Un attentato come a Manchester può accadere in qualunque momento anche da noi, ma la probabilità è bassa rispetto agli altri paesi, perché noi non abbiamo ancora la terza generazione di possibili radicalizzati. Quindi è una questione anagrafica, questo ci fa prevedere che forse adesso no, ma più avanti chissà. Va bene, lasciamo un attimo la questione del terrorismo, veniamo all'Italia, veniamo prima della pubblicità all'articolo che mi fa pinzore della giornata, l'articolo da mani sul volante, mani sul microfono, lo faccio vedere anche in diretta sulla nostra profilo Facebook di Radio 24. Paolo Berizzi racconta su Repubblica, siamo a pagina 18, del saluto romano del cappellano ai camerati. È un gesto shock che è stato postato tra l'altro anche su YouTube a una commemorazione al cimitero. Già, voglio dire, c'è stata la commemorazione della morte di Salvatore Umberto Vivirito, ex militante neofascista, morto nel 77 a 22 anni in seguito a una ferita da arma da fuoco rimediata nel corso di una rapina nella quale Vivirito assassinò, crivellandolo con 6 colpi di pistola, il titolare del negozio Ernesto Bernini e ferendo gravemente anche la moglie. Ebbene, c'è stata la commemorazione per il camerata Umberto Vivirito, con tanto di immagini, eccetera, saluti romani, che sono vietati per legge, e in prima fila un prete, il prete che fa il saluto romano, urlando per il camerata Umberto Vivirito, presente, e fa il saluto romano. Don Orlando Amendola. Uno che non è nuovo a questi gesti, non è nuovo a esibizioni politiche a sostegno dell'estrema destra. Un anno fa si fece fotografare a un gazebo elettorale con il candidato Stefano Pavesi, di una formazione neonazista. Viene definito il cappellano dei camerati. Ogni anno è presente alla cerimonia in ricordo dei caduti della Repubblica Sociale Italiana nel suo campo decimo. E va bene. Eccolo qua, il saluto romano del cappellano dei camerati. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, o bagai, quel che la mattina leggi giornali senza pagai. Lo so che molti poi dopo non vanno a comprare. No, dovete andare a comprare per approfondire gli articoli che io vi riesco a leggere nei titoli, in alcuni stralci, no? O no? Allora, come è andato questo incontro Trump-Papa? Il Papa che ha ricevuto il Trump. Ho parlato come il bravo bagai, no? Sapete, i milanesi dicono il Trump. Allora, Papa Trump, prove di disgelo. Questo è il titolo dell'articolo di Carlo Marroni a pagina 8 del Sole 24 Ore. Ovviamente ci sono queste foto, cioè per esempio tutti hanno notato la foto in cui il Papa è un po' cupo in viso mentre tutti sorridono nella foto ufficiale, però ecco, a giudicare dai giornali, secondo Repubblica l'incontro praticamente è andato con il gelo, è gelo tra Francesco e Donald, secondo altri è andata bene, secondo la Santa Sede, un documento ufficiale, è andata molto bene, è stato un grande dialogo, secondo Trump, non dimenticherò mai le parole del Papa. Ovviamente poi bisogna capire, bisognerebbe essere state delle mosche in quei 27 minuti di colloquio privato tra loro due. Mentre il presidente sorride alle telecamere, scrive Carlo Marroni, il Papa abbassa un po' lo sguardo. L'incontro deve ancora iniziare, la lunga processione della fu corte papale ha accompagnato Donald Trump fino alla biblioteca dove lo aspetta Francesco, un incontro privato di mezz'ora che fonti vaticane assicurano è andato decisamente bene. Allora, secondo il Sole 24 Ore, fonti, è andato decisamente bene. Lo si è visto anche dal clima disteso dei saluti, dello scambio dei doni, forse da qualche battuta fuori programma. I due, Francesco e Trump, sono in disaccordo praticamente su tutto, dal clima ai migranti, dal traffico d'armi al modello di capitalismo senza freni. Ma il comunicato finale della Santa Sede mette sul piatto fatti importanti. È stato espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali esistenti tra Santa Sede e Stati Uniti, nonché il comune impegno a favore della vita e della libertà religiosa di coscienza. Ecco, il tema della vita, scrive Marroni, nel linguaggio politico significa anche contrarietà all'aborto. È un tema centrale per l'episcopato americano conservatore, ma lo è anche per Trump. E forse questo è l'unico punto un po' di contatto, perché per il resto invece Repubblica parla di gelo, per esempio. Poi vabbè, vi tralascio tutti gli articoli di colore, i doni, i sorrisi di Trump, Ivanka Trump che vede una foto di Giorgione Chinaglia, quella in cui guarda un po', esulta, Giorgione Chinaglia, grande giocatore della Lazio, insomma che esulta guardando un po' il cielo, Ivanka Trump chiede ma che santo è quello lì, invece è Giorgione, San Giorgione Chinaglia per i laziali. Vabbè, colore, colore. Certo, c'è da dire che oggi mi colpisce positivamente Gramellini, perché sentite cosa scrive, tu chiamale se vuoi ossessioni nel buongiorno. Cioè c'è questa cosa di smitizzare Trump, o meglio di insultarlo, ridicolizzarlo, mettendo in luce quello che sono gli aspetti della presidenza americana che sono di tutte le presidenze americane, Obama compreso. E infatti Gramellini scrive: il ventennio berlusconiano dovrebbe aver insegnato che il modo migliore per prolungare la carriera di un avversario politico consiste nel trasformarlo in un'ossessione. Ai maestri di bon ton della sinistra che fu, la breve campagna d'Italia della famiglia Trump ha offerto una ghiotta occasione per ribadire che quei parvenu sono impresentabili in società. La figlia Ivanka in osteria scambia la foto del laziale Chinaglia per quella di un santo e tutti a darsi di gomito. Se la moglie Melania rifiuta di tenere Donald per mano, fioccano le accuse di maschilismo. Se lui gira per Roma con 10 auto, è un cafone da esecrare. Obama, che sgommava con la stessa scorta, era un idolo da proteggere. Sono arrivati a criticarlo perché nella foto di gruppo col Papa era l'unico che rideva, ma meno male, con tutti quei vestiti neri l'immagine era già abbastanza funerea di suo. Hanno perfino insinuato che Bergoglio gli avrebbe parlato in spagnolo per sfregio, anziché per la semplice ragione che non sa l'inglese. Anche la definizione di losers, sfigati, da lui coniata per i terroristi, ha scandalizzato le verginelle, troppo televisiva. Invece, lo stile ma leale New York Times l'ha elogiata, a riprova che un conto è criticare Trump, un altro ridurlo a caricatura. È curioso che a esercitarsi nel dileggio siano stati gli stessi che esaltano la diversità come valore, purché il diverso sia compatibile con loro, altrimenti diventa subito un inferiore. Eh beh, non male questo buongiorno di Gramellini, mi stupisce anche che l'abbia scritto così, ma molto molto efficace. In tutto Trump ha chiesto anche una cosa pratica, la svolta sulla NATO anticaliffo. Anche la NATO si occupi della... entri in alleanza in guerra contro lo Stato islamico. Sapete che il tema della NATO per Trump è centrale, forse se ne parlerà anche al G7 e anche i finanziamenti della NATO. In tutto questo, ieri c'è stata un'altra strage, un barcone di migranti che si è ribaltato, una strage di bambini al largo della Libia, a bordo c'erano almeno 500 persone, sono stati già recuperati 34 cadaveri, tra questi i minori annegati sono almeno una decina. Al largo delle coste di Zuara in Libia, il barcone stracarico come sempre si ribalta, si inclina sul lato per il peso sbilanciato, scivolano così poco meno della metà dei passeggeri, circa 200 in mare. Tra l'altro il MOAS, una delle ONG che interviene, una delle organizzazioni, quella anche chiacchierata, costituita da un americano e dall'italo-americana Regina Catrambone, che salva i migranti, ha ripreso tutta la scena, l'ha messa sui social, rendendo quindi molto realistico questo dramma, perché è visibile con tutte le persone in mare e purtroppo anche persone che non ce l'hanno fatta. Questo ricordatevelo. In tutto la politica italiana si interroga sempre su questo patto del Nazareno bis, che non è un patto del Nazareno bis, dice Renzi, ma insomma si vogliono vedere un po' le carte su questa offerta di Berlusconi del proporzionale. La legge proporzionale, il sistema tedesco lo vuole Berlusconi in cambio di andare a votare però a settembre. Renzi dice in pratica la legge elettorale va fatta entro luglio o mai più. Capito? Mai più. Siamo nella 213esima settimana. Sì, va bene. Vabbè dai. Invece, Renzi sarebbe pronto a vedere Berlusconi così come tutti. Insomma, schermaglie politiche di una noia mortale. Io veramente non ce la faccio più. Non ce la faccio più a seguire questo tipo di diatriba. Oh, sulla legge elettorale è arrivata anche una bacchettata sulla legge elettorale, il sistema proporzionale, anche una bacchettata dal presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, nell'assemblea di Confindustria, nella quale si è parlato ovviamente anche di altro. È intervenuto anche il ministro dello sviluppo economico Calenda a dire che, tra le altre cose, le elezioni anticipate non sono un bene. Calenda ha frenato sulle elezioni anticipate, come aveva già fatto anche con un'intervista che aveva suscitato un po' di polemiche all'interno del governo di recente, ma insomma non si è parlato solo di questo e di politica, si è parlato anche di economia. E questa è l'apertura del Sole 24 Ore, caro Mauro Meazza, io non ce la faccio più, aiutami te. Caro Alessandro, ma non fare così, guarda, concentrati su altre vicende, su altre cose in preparazione. Per esempio, non so, la manovrina, non ti piace la manovrina? No, la manovrina. Guarda che la manovrina è un argomento che sempre suscita ogni giorno qualche tema di interesse. Ad esempio oggi parliamo del ritorno dei voucher. Oh, dai, fammi studiare, però voucher. Invece li rimettiamo come saranno, molto diversi. Ma non erano stati aboliti? Sì, sono stati aboliti, però adesso li facciamo diversi. Ah, vabbè. Allora, se vuoi capire come si stanno attrezzando, si stanno apparecchiando i nuovi voucher, allora leggi Sole 24 Ore, a pagina 10 ci sarà un sistema di contratto online, ci sarà un percorso per le famiglie e un altro per le imprese. Ma per le imprese fino a 5 dipendenti, ma insomma non ti posso dire tutto. Vedi su pagina 10 appunto la manovrina, che è sempre, io ti consiglio anche come argomento così. E poi naturalmente, caro Alessandro, ma ti ha scritto per caso il fisco? Hai un fabbricato rurale che ti sei dimenticato di accatastare correttamente? No. Non ce l'hai, come mai? Ma mi dispiace molto per te. Va bene, però ci sono, sappi caro Alessandro, che ci sono 1 milione di lettere. Sì. Perché era stata fatta negli anni scorsi una richiesta di modificare l'accatastamento dei fabbricati rurali, erano qualche milione e ci sarebbero 1 milione di persone che non si sono accorte di questa necessità. Può capitare, uno si è distratto, e allora adesso l'agenzia ti scrive, non so se anche a te, se hai qualche cosa da accatastare correttamente. No, sono 2 giorni però che non apro la casella della posta adesso. Allora adesso magari andando a casa controlla un attimo, perché se hai una lettera saresti insieme ad altri 999.999 italiani. Tutti i particolari naturalmente su norme e tributi, ma poi ti segnalo anche, anziché pensare alla legge elettorale, guarda, ti dico una cosa, pensa alla caldaia. Ok. Perché viene la bella stagione, il momento in cui uno si deve anche domandare se l'impianto di riscaldamento è in ordine, e allora oggi con il Sole 24 Ore, essendo che è giovedì, c'è Casa 24. Tra le varie informazioni che trovi su Casa 24, anche come installare un tipo di caldaia, quella condensazione, ma avere anche degli sconti fiscali, in quanti anni puoi rientrare della spesa e così via. Non interesserà a te perché sei giovane, beato te, ma c'è anche qualche ulteriore informazione sull'ape social, sai l'ape? Sì, come no. Allora vedi che si parla anche di cose importanti su norme e tributi, naturalmente, quanto può essere effettivamente il vantaggio dell'ape social rispetto all'attendere la pensione. E poi a molte altre cose ti vorrei dire, in realtà, ad esempio, parliamo del problema di un possibile bail-in per le banche venete, leggi avidamente da finanza, perché lì c'è una discussione, un dibattito con la Commissione europea, speriamo che si concluda nel migliore dei modi, ma poi anche il ritorno delle cattedre NATA. Ti ricordi quelle cattedre? Come no? 500 docenti? poi si è tutto fermato, ma adesso... Cioè, quelli scientificamente validi, chiamata diretta dall'estero... Ma bravo, ma ti trovo molto preparato, quindi hai già letto il Sole 24 Ore come nella pagina, nella come pagina dei commenti e delle inchieste. Ebbene, lì ti spieghiamo che si sta preparando una revisione, un ritorno delle cattedre nate. Vedi quante belle cose ti ho consigliato per distrarti, ma perché in fondo, caro Alessandro, io ti voglio bene. E quindi, traffico! Alino, te non tutti intendi di tetti ritinti. Se tutti intendessi di tetti ritinti, tu ritinti reggeresti tetto. Benissimo, benissimo, alle 7.50. Allora, la vicenda vaccini che è sempre in primo piano. È stato radiato un altro medico, il secondo nel giro di pochi giorni, questa volta dall'Ordine dei Medici di Milano. Si chiama Dario Miedico, fa il medico, o meglio faceva il medico, il signor Miedico. L'Ordine ha radiato Dario Miedico, medico legale di 76 anni, considerato un paladino dagli antivax. Era successo anche al cardiologo Roberto Gava, primo, cui l'Ordine di Treviso, questa volta ha applicato la massima sanzione prevista dall'anno scorso per i camici bianchi che sconsigliano le vaccinazioni senza motivazioni scientifiche. La decisione è stata comunicata all'interessato ieri mattina e, leggevo dall'articolo di Giulia Bonezzi sul Giorno, a pagina 17, ma... anche La Stampa dedica una pagina a Dario Miedico, per l'appunto. Lui, racconta Chiara Baldi, lui che dice di non avere pregiudizi contro i vaccini ma si batte perché i bambini non li facciano. Per questo è stato radiato dall'Ordine dei Medici di Milano con una motivazione che ancora deve essere scritta, ma riguarda la posizione sui vaccini del 76 anni medico legale. Lui si difende dicendo: per me i vaccini vanno fatti esclusivamente in presenza di un'epidemia, in Italia non c'è questo pericolo, faccio il medico da 50 anni, da 40 sostengo che i vaccini causino danni. Radiato questo sui giornali. Poi ci sono due casi Rai sullo sfondo della vicenda di Campo Dall'Orto, che secondo il Corriere rimetterà il mandato al ministro Padoan quando si incontreranno. I due casi Rai sono: il primo, Insinna, il caso fatto scoppiare da un fuori onda di Striscia la Notizia, che scatena il caso Insinna, un fuori onda nel quale Flavio Insinna, conduttore di Affari Tuoi su Rai 1, si scatena contro i suoi autori per la scelta di alcune persone, alcuni concorrenti, tra cui quella definita una nana in maniera molto sprezzante, anzi una nana di M che parla con le mani davanti alla bocca, la si prende, la si porta di là, le si dà un colpo nel basso ventre, le si dice torna e gioca, insomma si lamenta Flavio Insinna in maniera molto, molto dura con i propri autori per la scelta di alcuni personaggi che sono andati in TV e che evidentemente non li garbavano. Avete sentito che questa signora Rosy Siracusa è stata intervistata ieri da Cruciani e Parenza da Zanzara dicendo: sono rimasta malissimo, ora pare che possa voler denunciare, eccetera. Il direttore di Rai 1, Fabiano, Andrea Fabiano, esprime su Twitter solidarietà umana e professionale a Insinna, non certo per le parole espresse. Qualche parola a Repubblica dal direttore di Rai 1: non è mia abitudine giudicare le persone, è ovvio che le parole che abbiamo sentito non sono accettabili, innanzitutto per rispetto alla signora, ma in generale per tutte le persone che si sentono offese e insultate. Bisogna esprimere le scuse, accanto però alla solidarietà. Ognuno dovrebbe tenere il comportamento più corretto, ma poi possono esserci momenti in cui ci si può sfogare. Ovvio, sarebbe stato meglio non fosse capitato, ma la cosa che più mi dispiace è il modo in cui questa cosa è venuta fuori, un modo che si commenta da solo. I video sono stati girati nello studio, riprendendo un monitor in cui c'erano immagini dello studio. Quanto all'audio, non ho elementi di certezza per dirlo, ma non si sente un rumore di fondo fragorosi, sembra una conversazione più ristretta. Insomma, il direttore di Rai 1 dice: è un audio che è uscito un po' così, qualcuno l'ha trafugato e l'ha dato a Striscia la Notizia. Il secondo caso è il caso Vespa, che ha scritto ai vertici della Rai una lunga lettera dicendo: non voglio norme contra personam, una lettera nella quale ha spiegato perché lui non debba rientrare nel tetto da 240.000 euro, tetto massimo. Io non rientro in quella categoria. Perché? Perché io non sono solo un giornalista, ma anche un artista. Il programma non è di carattere esclusivamente giornalistico. Vespa scrive ai vertici della RAI: io non rientro in quella categoria del tetto da 240.000 euro. Questo è il Corriere, ma anche Repubblica, tutti i giornali si occupano di queste due vicende, Insin e Vespa. Va bene, dai, siamo alla carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali. In realtà mi hanno già fatto venire una fame terribile. Una pagina intera di Martina Marinelli sulla Verità, una pagina intera per raccontare e rispondere a questa domanda: ma perché nessuno riesce a resistere al richiamo delle patatine fritte? Ma chi se ne frega!